questa vita, io sono solo un prigioniero. E poi non vede, non vede la mia pena, non capisce i miei pensieri. Non vede come viviamo, non vede che non amiamo. Se capita, come sono le risposte alle tante lettere spedite. E poi mi dica dove siamo e che stiamo ancora aspettando. Non vede come viviamo, non vede cosa facciamo. Non vede, non crede. Liberatevi, liberatevi dalla noia e dalla confusione. Liberatevi, liberatevi, le mie mani devono applaudire. Liberatevi, liberatevi dalle mille, più di mille paure. Signor capitano, ho i sogni tra le mani, non ho fatto mai del male a nessuno. Domande facili, di risposte, quanto falso, quanta indifferenza. E dai piccoli diavoli sono quelli che fanno più male. Non vede, non respiriamo, non vede, stiamo morendo. Non vede, non crede. Liberatemi, liberatemi, le mie